Ho partecipato al corso di formazione per il Ministero di Cura d'Anime, tenutosi a Poggio Ubertini in Toscana, dal 26 maggio al 2 giugno e annunciato su Il Cristiano di Ottobre 1990. Il corso era organizzato dall'Unione per la Lettura della Bibbia ed era tenuto dal pastore Maurice Ray. L'esperienza è stata unica e positiva, ogni giorno piena di sorprendenti sorprese. La prima sorpresa mi è arrivata quando, giunto sul posto, ho visto quattro macchine Targate Modena. Modena? Chi sono questi credenti? Mi sono chiesto. Ero infatti convinto di essere il solo a partecipare al convegno tra i credenti del movimento evangelico della mia provincia. La risposta non ha tardato a venire. I modenesi non erano altro che una parte di un gruppo di 120 persone, appartenenti al rinnovamento carismatico cattolico, che frequentano uno studio biblico settimanale a Corlo, una frazione del mio paese di Formigine a 3 chilometri da casa mia. Così, dopo che tutti ci siamo presentati, ho capito che il convegno era frequentato da persone che hanno espresso le seguenti confessioni di fede: cattolici, apostolici, chiese dei fratelli, esercito della salvezza, assemblee di Dio, chiesa evangelica, chiesa di Cristo. Il tutto veniva completato dal predicatore, appartenente alla Chiesa Riformata. Vivere 9 giorni assieme a realtà religiose diverse è un'esperienza che ogni credente dovrebbe fare. Commentando da evangelico, però, certo è successo, non dico di tutto, ma un po' di tutto. In una camera si sentiva recitare il rosario, alla domenica mancavano dei partecipanti perché erano andati a messa. Qualcuno faceva il segno della croce prima di mangiare, un altro durante il pasto raccontava barzellette evangeliche e dei cattolici imponevano le mani sugli evangelici. Si seguiva il canto di lode danzando con le mani alzate nei gruppi, alcuni ringraziavano Maria perché li aveva guariti, si cantavano gli inni 3, 4, 5 volte e come dimostrazione che tutto questo non era una ragione di divisione ci si chiamava tutti fratelli e sorelle nella fede pregando. Ed è assolutamente lontana da me l'idea di far polemica, ma prendo l'occasione per lanciare un appello. Prima però desidero ribadire che l'incontro con altre realtà religiose serve per farci riflettere. L'abbandono alle promesse di Dio dei carismatici cattolici, la loro gioia, il modo di esprimerla è veramente attraente e galvanizzante. Certo, noi cristiani evangelici crediamo alle promesse di Dio perché diciamo che siamo salvati, che abbiamo lo Spirito Santo, che abbiamo e ci limitiamo ad altre poche ragioni. Ma poi viviamo una vita talmente trascinata che dobbiamo domandarci se Dio ha fatto così poche promesse, o se noi abbiamo dimenticato, o non crediamo a quelle promesse che ci permettono di vivere una vita abbondante. Spesso le nostre chiese sono più impegnate a crogiolarsi nei propri problemi, piuttosto che lodare e ringraziare Dio della vittoria che abbiamo in Cristo. Diciamo di avere tutto in Cristo, poi passiamo delle intere riunioni a chiedere cose che ci sono già state elargite, come per esempio l'amore, Romani 5:5. Credo che il movimento carismatico ci sfidi a realizzare di più le promesse di Dio. E, giunto il momento per noi cristiani evangelici di essere preoccupati, oltre che della dottrina, anche della lode, espressa con tutto il cuore. Non a caso, e non ci è voluto il movimento carismatico, nella chiesa alla quale appartengo si è stabilita da tempo una riunione di preghiera al mese, dove sono rivolte solo preghiere di lode, di ringraziamento, di adorazione. Come ho detto, il movimento carismatico è galvanizzante ed è una realtà che non si può ignorare. Questo ramo del cattolicesimo attira con il suo modo di fare tutti coloro che hanno un cuore religioso, compreso gli evangelici, mettendoli spesso in imbarazzo. Sono credenti, sono cristiani. Come dobbiamo comportarci? Ecco gli interrogativi ai quali bisogna dare una risposta, per ragioni pratiche. Di fronte ad una persona che dichiara di essere nata di nuovo, di essere stata battezzata nello Spirito Santo, che proclama con gioia di amare il Signore con tutto il cuore, nessuno ha il diritto di accusarla di mentire. Questo giudizio appartiene a Dio. Come sta scritto, il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Però l'Apostolo Paolo non termina con questo assioma, ma continua. E si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Quando una persona fa le affermazioni che ho appena espresso, tuttavia testimonia anche di essere diventata figlia di Dio mediante il battesimo ricevuto da piccolo dal sacerdote quando ringrazia Maria perché l'ha condotta a Cristo quando recita il rosario. Allora ecco che sono molto perplesso. Una cosa però è chiara, è vero che non ho il diritto di accusare una persona che testimonia di credere in Cristo quale suo Salvatore, di non essere un cristiano, ma non ho neppure il diritto di chiamarlo cristiano solo perché esprime una tale testimonianza. Dio non autorizza nessuno a rifiutare una testimonianza di fede nei suoi confronti, ma altresì egli non autorizza nessuno a chiamare cristiano chi segue, adora e ama un Dio all'infuori di quello che si è rivelato nelle Scritture. Infatti l'Apostolo Giovanni ordina: «Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo». 1 Giovanni 4.1. Se l'ordine è chiaro, allora è possibile avere un giusto atteggiamento di fronte a coloro che si definiscono cristiani. La mia opinione personale di questo convegno di cura d'anime è che l'errore sia stato nel partire dal presupposto di essere tutti cristiani, di essere tutti in Cristo, di chiamarci tutti fratelli e sorelle nel Signore. Non sto dicendo che i cristiani in quel convegno fossero stati solo quelli del movimento al quale appartengo. Ma è stata una grande imprudenza, per non dire mancanza, partire dal presupposto di essere tutti cristiani, perché in questo modo abbiamo tolto la possibilità alle persone di riflettere sulla loro posizione spirituale. In pratica molte persone sono state vaccinate contro ad una reale conversione. Quindi quello che apparentemente è stato un atto di amore o una mano tesa per evitare lo scontro, a mio avviso, ha prodotto un danno la cui portata ancora non ci è nota. Certo, Dio si è servito di questo convegno per benedirci tutti, poiché le testimonianze sono state positive, ma se Dio sa convertire il male in bene, non vuol dire che, per quanto ci riguarda, dobbiamo continuare sulla strada sbagliata. A mio avviso si potrebbe, e in una certa misura si dovrebbe, continuare a organizzare convegni con partecipanti di più confessioni di fede, senza però partire con presupposti equivoci. Dobbiamo con molta chiarezza e molto amore avere e mantenere le proprie posizioni religiose, ma avere anche il coraggio e l'apertura di metterci a confronto con chi la pensa diversamente. Una fede individuale messa alla prova è molto più preziosa della fede ereditata di 100 persone. Per concludere vorrei riassumere quanto ricevuto dal Signore in questa esperienza. Un giorno il nostro Signore Gesù Cristo disse: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Molti diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo opere potenti?» E allora dichiarerò loro: «Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Matteo 7, 21-23. Con questo discorso Gesù non si è rivolto a dei buddisti o a dei musulmani, neppure si è rivolto agli atei, ma ha chiamato in causa coloro che si definiscono cristiani, coloro che invocano il suo nome. Gesù ha detto che non riconoscerà proprio coloro che hanno avuto in questa esistenza terrena esperienze particolari di vita cristiana, coloro che hanno compiuto opere potenti, che hanno cacciato demoni, che hanno profetizzato nel suo nome, mentre questi sono preoccupati del risultato della loro fede, mentre vogliono essere approvati per quello che hanno fatto, mentre ricordano a Cristo cosa sono stati capaci di fare, Gesù condanna il loro operato chiamandoli operatori di iniquità. Come iniquità? Iniquità predicare l'Evangelo, iniquità scacciare demoni, iniquità compiere opere potenti? Possibile? Sì, perché mentre noi siamo abbagliati da ciò che facciamo, Dio si preoccupa della nostra fedeltà. Nella Bibbia leggiamo che anche Satana può compiere grandi opere potenti, come gli incantatori e i maghi d'Egitto al tempo di Mosè, che con le loro arti occulte trasformarono dei bastoni in serpenti. Dio vuole che noi siamo fedeli al suo volere. Egli non ha bisogno di miracoli. Li può compiere per mezzo di chi vuole. Se è brutto rimanere delusi ora, in cielo sarà terribilmente fatale. Chi raccoglierà questo avvertimento fra coloro che desiderano compiere miracoli? Inoltre, da questo convegno ho ricevuto dal Signore che le vie di Dio sono imperscrutabili e che se fossero salvati solo coloro che hanno una giusta dottrina, nessuno sarebbe salvato. Un giorno comprenderemo appieno la grande misericordia di Dio, comprenderemo la sua infinita bontà espressa nella meravigliosa ed eterna promessa. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10 e 13. Al credente non resta che guardare alle promesse di Dio, proclamare con costanza il Vangelo e attendere Gesù Cristo, il quale tornerà per regnare 1000 anni, stabilendo sulla terra l'unica e vera religione. Basta solo aspettare con pazienza. Aprile 2011. Ellero.